Il punto di Stefano Folli. Il risultato del voto siciliano non renderà più facile il governo locale. Crocetta dovrà cercare nuovi alleati, non solo l'UDC di Casini. Dovrà guardare a Lombardo e a Micciché, negoziare, discutere. Troppo pochi i voti e i seggi, troppo frammentata e balcanizzata l'assemblea regionale. Suonano fuori posto certi accenti enfatici, un risultato storico che vengono dal centro-sinistra. È piuttosto una vittoria di Pirro, ottenuta con un'astensione oltre il 50% e le liste di Beppe Grillo, primo partito in Sicilia. Un dato clamoroso perché anticipa la possibilità che i 5 Stelle dilaghino sul continente e ottengano esiti sconvolgenti nel voto per il prossimo Parlamento. Non sarebbe strano, anche perché i partiti stanno facendo di tutto per promuovere le liste antisistema, a Palermo come a Roma. Ma è in Sicilia che un centrodestra perdente come mai in passato si presenta lacerato e diviso in faide. Un pericolo in più per il governo Monti, perché l'area moderata da tempo non conosceva una crisi così profonda. Siamo in un certo senso all'anno zero di un sistema politico troppo debole.